Gianni, passa in AM, AM. Guarda, vado la vescia. Sì, la sussiglia. Ti sento, ma è in balla, chi c'è? È in balla perché sicuramente l'altro giorno stiamo facendo le 10 in FM e poi mi sono dimenticato di accenderlo, di rimetterlo a posto, dai. Io faccio troppo esco, devo andare all'ospedale, c'è mamma ricoverata. Io oggi ne ho cambiato il... come si chiama il... di cosa del pacemaker, la sonda. Ah, perché cosa c'ha? Pacemaker c'ha? Yes. Ah, perché la batteria è partita. La sonda, la batteria è buona, l'ha cambiata 2 anni fa, mi pare. E vabbè, niente di grave comunque, là. Niente di grave, no, proprio, ma... adesso dictus. Vabbè, quello un po' tutti, i diabetici sono l'arcio di ictus, di infarti, di queste cose qua. Ma se pensiamo a quello, guarda, io avanti stavo parlando con un amico in chat, parlavo tutte le sere, scherzavamo e coso, e oggi ho saputo che gli è venuto l'infarto, ieri notte ci è rimasto. Di Sasa? No, di Roma. Sì, morto, poverino, giovane. 52 anni. Ma da poco? Sì, stanotte è morto. Cazzola, ma era malato per caso? No, non c'aveva niente, non era né malato né nulla, stavamo scherzando, ridendo, facendo battute, sino ieri notte non è entrato, infatti abbiamo detto come mai non è entrato in sala 8 Alessandro, e ha detto è strano perché solitamente almeno a salutare entra, che sa da fare cosa, almeno a salutare. E poi a luna il fratello, siccome viveva col fratello, ha chiamato e poveraccio, e ci ha detto che era morto, che gli era venuto l'infarto, e lui era uscito, il fratello è tornato a casa, l'ha trovato in terra, ha chiamato subito il 118, poi non c'era nulla da fare, era già morto. 52 anni, proprio però siamo di passaggio, inutile. Siamo di passaggio, è così, la vita è questa e nessuno ce la può cambiare. Purtroppo è così già. Ma era robusta, ma almeno. Era alto 1,90 e non era robusto, era normale, di corporatura normale, non era né grasso né niente. Anzi era abbastanza longilineo, era molto alto e longilineo. Ma chi se la... cioè io prima non ci pensavo a queste cose, ma adesso vedo sempre gente vicina a me che, nel senso che gente che conosci, che muore, allora ci pensi, capito? Lo so, ma io su Facebook non leggo altro, riposo in faccia. Non ho parole, per volte mi meraviglio, diciamo. Sì, mi meraviglio. Un casino. Proprio questa vita siamo di passaggio. Inutile. Siamo di passaggio. Altre cose non ci possono essere, assolutamente. Aspettami, 2 secondi già che stavo. Mi sono portato la baracchina. Mamma, 78 anni, sai, no, diabete, no, brutta bestia, però grazie a Dio, mi ha anche telefonato poco fa, però alla fine è sempre un intervento, ho già capito, ma fanno di routine, ma lì alla fine è sempre grande di età, il suo cuore è diverso da uno tipo come il mio, faccio un esempio. E così, faccia a Dio quello che vuole già. È morto anche, non so se tu non l'hai conosciuto, quello che aveva prima il tabacchino di Abbandella, quello con i baffi. Ah, sì, sì. È morto anche quello lì. Non so di che cosa, però mi ha detto questo amico che l'ha visto sul giornale e ci è rimasto secco. Cazzo di cazzo. Sei pulito, allora la mangiare a Dea. Altri 5 minuti poi devo andare a prendere la mia compagna che dobbiamo salire all'ospedale. E devo portare via l'insulina. Poi l'insulina mamma non ne ha fatto. Ma gli faranno un altro tipo di insulina per cenare, boh. Poi domani mattina si farà la sua. Poi vado, penso domani mattina la dimettono. Ma allora me la recupero, me la porto a casa. Portale la scatola, che loro ci pensano loro a fargliela, capito? Li misurano la glicemia, gliela fanno loro. Io gli avevo portato tutti i medicinali perché la metà dei medicinali loro non ce l'avevano. No, già la scatola, cosa se la rimettono domani? Ah, e allora? Allora, cosa ne sarebbe da fatta, dai? Ma dove? Cazzo, c'è pure un boccia a foglio, che cazzo mi ha fatto il boccia a foglio? Se fosse portato a foglio sono un culato. Non lo dire. Lo metto sempre nella cassetta. Non devo portare a foglio adesso. Qua va bene, vai a ritroso e pensa che cosa hai fatto, già lo trovi. Io l'altro giorno era portato a Torres a vedere un compenso e cosa. Sono andato a cercare le chiavi di casa, c'erano in tasca, non le trovavo da nessuna parte. Ho provato il borsello, tutti i reparti del borsello, niente da fare. Però cazzo, senza chiavi di casa come faccio a tornare? Oh, non era in tasca, nell'anguillo, siccome c'ho le tasche grandi e pantaloni. Nell'anguillo, io guardavo dritto e non c'erano. Cazzo. Erano nell'anguillo messi proprio nell'angolo. Buccia, no, io cazzo l'ho messo nel cassetto, adesso non ho troppo. Cazzo, ma di cui sbaglio cazzo, ci posso portare a fuoco. Ma cazzo, ma sicuro di no, ma l'ho perso perché. L'ho messo nel cassetto qua. Cazzo, non va. No, che è qua. Se non so che ci ha portato a fuoco. Ci ho lasciato la Michela. Non lo so. Se no non mi ha fatto diventare matto il cellulare, se chiamando eccetera, no, no, praticamente risultava libero, ma in casa non c'era, e dove l'ho lasciato, dove non l'ho lasciato, non sai dov'era, all'interno dei sedili della macchina, proprio la parte interna dove ci sono le marce, lì, c'è un sedile e l'altro, mi è caduto dalla tasca, deve essere infilato lì, ma cioè... A trovarlo era un casino, sono dovuto scendere con mio figlio, mi sono fatto chiamare in macchina e ha suonato, allora ho capito che era in macchina. Poi ce l'ho lasciato qua, perché qua c'è una un ripostiglio per mettermi le cose mie, no? Personali, poi nell'altro c'ho le magliette, no? La camera a porta, ed era lì, l'ho appoggiato lì, meno male, l'ho aperto lì. 7 secondi già da mangiare a te, ma non va nessuno, ma fare il manicetto barattino. Già entra ogni tanto qualcuno, ieri è entrato anche Poverone, Michele, te lo ricordo. Luca, mi senti? Sì, sì, ti ho sentito già, mi sono spostato nella cucina da mangiare il cane. Sì, Michele è entrato. Scappa. Vabbè, è stato poco, ma ci ha salutato, dai. Mi sembrava un vecchio CB, che fosse un vecchio CB, Tore Squalo, invece non era lui. Stava cercando a lui. E vabbè. E comunque, anche ieri c'era Marco Condor, poi è entrato Alessio, insomma, qualcuno entra ancora, dai. Sì, no, vabbè. E dipende dai giorni, anche se vabbè inizia l'autunno, il freschetto, la gente mai non esce. D'estate la gente se ne va in giro già, capito? E così, io la so, ne sentiamo anche 20 già, male in cuore, ma ti devo salutare, dai, che ho appuntamento con la mia compagna alle 7. Sì. Devo andare a prendere lì in corso Trinità, così si sarà all'ospedale. Va bene, dai, lui non c'è problema. Sempre la stessa, c'è, sì. Eia. Ah, visto, che hai trovato la soluzione. Ehi, Giulia, tira il molla. Vabbè. L'amore è un'altalena. C'è un po' di forza. Va bene, dai. Quando hai fatto il chiarito di sé vuol dire che qualche cosa c'è se non l'avresti fatto. Ci sentiamo, Luca, dai. Buona serata. Yeah, altrettanto, ciao. Come sto uscendo. Va. Ciao Gianni, ciao Natalino, chi era? No, era Luca Vermo. Ehi. Aiuto Luca, fai da bravo, aiuto, esci fuori, tanto ti ho capito che sei Luca Flipper, vedo di che non ti conosci. Ah, Luca Flipper. No, buonasera a tutti, scusate. Sono appresso a ricevute da mettere a posto, scontrini, ricevute, bollette pagate, devo tutto mettere nel brogliaccio nuovo, dividerli per categoria, acqua, luce, tiri, tari, tutte queste menate qua. Ma io lo faccio volta per volta, c'ho le cartelle, c'è scritto luce, acqua, tari, tutte le cartelle c'ho, e ce le metto in mezzo. E il 7.30 li metto dall'altra parte, sempre in cartella, con l'avo scritto sopra, a me non mi butti in singolo, io sono troppo ordinato. Verso te, no, da qua c'è il caos, io ce l'ho in testa il caos, quindi per me è più arduo. E perciò ogni tanto bisogna fare una messa a posto di tutto. Volevo chiedere a questi... No, vabbè, niente, dai, non è radio. Vabbè, poi magari mi chiama, sta caricando il telefono. Poi mi chiama magari alle 8 quando scendo col cane, mi chiama. No, non è importante. Ma tu come lo carichi, da spento o da acceso? Io lo lascio sempre acceso. Non lo spengo mai il telefono, anche la notte è sempre acceso. Sì, beh sì, in realtà anch'io lo lascio acceso, però ho visto che da acceso la carica è più rapida, mentre quando è spento la carica è più lenta, più rilassata. Certe volte preferisco una carica lenta, tranquilla, per tante ore che non quelle solite, quelle cariche veloci. Poi il carica batteria originale lo temo, perché è di quelli rapidi che ti fa scaldare un bel telefono, e secondo me già, noi lo sappiamo bene che comunque le batterie, più le cariche veloci più si riscaldano, più in teoria le puoi rovinare a lungo andare, soprattutto in estate. Scalda un bemmi, io non mi fido. Eppure c'è questa moda, caricatori da 60 watt, 80 watt, 100 watt. Sembra che uno abbia sempre il pepe al sedere, no? Che lo vuole carico in 10 minuti, e così l'ammazzi la batteria però. Poi vabbè, queste al coso saranno un po' più resistenti, però io mi ricordo che quella dello Xiaomi, del Redmi, del Huawei mi si era gonfiata. Capito, in estate magari in macchina usando caricabatterie non convenzionali, magari regolate poco bene, mi si era gonfiata, si era staccato il guscio di dietro, era a rischio scoppio, e se piglia fuoco che non ci sei, fa un bel di danno, come le Tesla. Lo so, ma lo carica mezz'ora e lo scalda, dico la verità, non scalda mai la batteria, non scalda, lo tocco apposta, lo scalda. E dipende sempre dai telefoni anche. Io c'ho Oppo. Io Redmi Note, no, i soliti. Certe volte rimpiango l'Huawei, Vabbè, perché ero abituato a quello, però i suoi anni li ha fatti di lavoro, quindi ormai può andare in pensione. A parte poi che ha cominciato a non funzionare più l'audio, cioè non squilla più, non senti più nell'orecchio, non funziona più il viva voce, non funzionano più gli auricolari, non è morto proprio, non funziona, persino la vibrazione ha smesso di funzionare, quindi poi è tutto spaccato dietro per via della batteria gonfia, capito? Sai cos'è? Sai cos'è quando si rovina? Quando tu lo vai a caricare, che poi tieni però, lo schermo è sempre acceso, magari messo a manetta, allora sì che senti scaldare. E così era successo a me. Guarda che il mio è super sfruttato, perché io uso per cantare, a volte lo carico anche 2 o 3 volte in una giornata, però diciamo che carica in fretta, la carica in mezz'ora, c'è la carica pronta e io lo posso usare. E a volte quando sono nei contest che mi si sta scaricando, che magari sono in coda, devo cantare, me lo attacco alla presa e canto lo stesso, capito? E intanto carica, anche se più lentamente, ma carica. Sì, dipende poi da telefono a telefono, insomma. Ok, io sono entrato così, non so nemmeno che c'era. Prima invece, prima di sentire qualsiasi voce, avevo sentito come un fruscio fortissimo qua sul 10, dall'altra stanza. Come un fruscio e basta. No, io guarda, ce li ho accesi perché io già lo so, li accendo ogni sera per scaldare tutti gli apparecchi. Ce l'avevo acceso e non c'era un'anima viva, poi è entrato Luca, però lo sentivo come pappellino, faccio che è strano, Luca, se sei tu dentro sei scendo come pappellino, però vabbè, vai in AM, chi c'è in FM, e non mi ero ricordato di girare in AM, capito? Sì, è un po' quell'effetto che sentivi con l'inversione di banda. Addirittura ho visto una pubblicità o in vendita, che però sono invendibili perché il circuito sarà fragico, dei microfoni per baracchino con lo scrambler a inversione di banda incorporato e regolabile pure, con tutti i contraves, così si chiamavano, quelle rotelline, tu ti sceglievi il codice e ti regolava la frequenza di inversione di banda, che poi è una fesseria anche da ascoltare con certi trucchi, vabbè, però i più non lo sanno fare. No, non li conoscevo sinceramente, va, con quei microfoni non l'ho mai sentito, però ci sono tante cose che si usavano prima che adesso non ci sono più, capito? E ci sono quei vecchi CB che adesso se ne vogliono sbarazzare le vendo, sono cose belle. Tipo, cosa ti posso dire, come si chiamava quello lì, adesso non mi ha detto manco come ti chiamava, vabbè, quello che ti faceva scivolare delle bande, cercavi tutti i canali, eccetera eccetera, quello lì lo stavano vendendo da poco. Ah, il WFO. Esatto, non mi veniva il nome. Sì, il WFO. Prima si usavano queste cose perché c'erano pochi canali, quindi per andare ai canali oltre 23, chi ce l'aveva era fortunato, 23 perché c'era molta gente, c'era 6 canali e niente. Io mi ricordo che era andato a casa di un amico, ce l'aveva la Fayette, quello base con WFO e funzionava. Sì, mi ricordo quando ero entrato io, c'era un ragazzo giovane che magari nessuno ha conosciuto, che modulava dalle parti di Via Napoli, no, quella è Via Mendola ancora, aspetta, vabbè, Via Napoli, Via Risseto, quelle parti lì, adesso aspetta, dunque... Sì, dopo Salvatore Ruio, quindi risulta già via Napoli quel pezzo. E aveva un baraccone, credo anche vecchio, un baracchino stiamo parlando già anni 80, però lui ce l'aveva che era già vecchissimo. Con un WFO, sto rotellone, lui si centrava con i canali extra con quell'affare lì. E vabbè. volevo, cosa ti volevo dire sempre di questa roba qui? I quarzi, io non ho mai capito una cosa dei quarzi, gli apparati quarzati. C'erano quelli di ricezione da una parte e quelli di trasmissione dall'altra. Io ce li avevo diversi di quarzi e aprivo l'apparato quando volevo cambiare canale e mettevo i quarzi, certo sapevo già le posizioni, i numeri ce li avevo segnati, ricezione e trasmissione in un foglio di carta per non sbagliare. Avevamo scoperto che con i portatili, no, proprio appena siamo entrati, o ce l'avevano detto, che invertendo i quarzi praticamente andavi, finivi a parlare sui canali di sotto, no? Invertendo il quarzo ricezione e trasmissione. Però poi succedeva che dopo poco tempo i quarzi smettevano di funzionare. È probabile che, non lo so, c'era una tensione diversa in base alla ricezione, alla trasmissione, lì agli zoccoletti lì ci passava qualcosa di diverso. Fatto sta che si guastavano sempre facendo questo trucchetto. E nessuno ha mai saputo mai spiegare il perché. Probabilmente erano stati costruiti per funzionare in una maniera e tu li facevi funzionare al contrario. È normale che poi alla fine si sballano, è normale. Ma io li ho avuto diversi apparati a quarzi, ne ho avuto diversi, io c'avevo i quarzi, li compravo alla GBC, poi li avevo regalati tutti, non so se ti ricordi Samantha, che la stavo frequentando. Samantha. Sì, di nome sì, me la ricordo. L'avevo anche vista una volta mentre le davano un passaggio, però sono passati talmente tanti anni che magari non era manco lì, ma perché c'era un po' robusta? No, quella lì era Roberta, quella era la sorella. Samantha era buona. Adesso se la stavo attentando, ma non ci è riuscito. Oh. Ma chi era quella che andava ad acciuppare a casa di Corrado, quello del grattacielo? Ti ricordi Corrado del grattacielo, che poi il nome vero era, forse era o Eugenio o un'altra cosa, c'era una sempre che andava al bivacco a casa sua, non mi ricordo il nome, sono passati troppi anni da. Quel Corrado era un filibustiere, ci aveva fatto quella di Proaghe. Poi quella che si chiama Gianna e poi non mi ricordo chi altro. Non hai capito, le attirava nella tana del lupo. Era un filibustiere quello. Vabbè, quella è qua che anch'io. E poi che altro sui quarzi, vabbè. Vabbè, belli portatili di allora, quelli erano portatili con la P maiuscola. Ah, ti volevo raccontare un fatto già, anche lì vorrei qualcuno che mi spiegasse il perché. Allora, tu hai un Baofeng UV5R, ci siamo? Sì. Tu hai il suo pacco batterie, no? Trasmetti e funziona tutto bene, no? Ricevi, trasmetti, eccetera, senza nessun problema di sorta. Allora, vendono questo accessorio che è il pacco pile vuoto, tu ci metti delle pile al posto, pile o batterie, cioè o ricaricabile o pile al posto delle, è vuoto, dai, ci metti quello che vuoi, di solito mini stilo, no? Le metti belle cariche, anche che abbiano una capacità notevole, non mi ricordo se era un stilo o mini stilo. Lo inserisci, accendi tutto bene, vai a trasmettere e l'apparato si spegne, oppure comincia a fare come se avesse dei gravi rientri RF. Come può essere questa cosa? Se ampere ne hai a buttarne, in cosa può influire? La schermatura scarsa delle batterie ricaricabili? Non saprei, non mi ricordo nemmeno se l'ho provato con pile, con le pile tipo per esempio Energizer, Purecell, quelle che sono belle blindate. Non saprei dire, guarda. Secondo me è troppo assorbimento e con quelle batterie non ce la fa. Probabilmente quelle batterie non gli danno ciò che riserve, ciò che hanno con le batterie della casa. perché anche io ce l'avevo la pila così, c'ha praticamente il pacco batterie che prende le batterie a parte, poi c'ha la batteria ricaricabile che si inserisce dentro la pila, che è di quelle grandi, e la ricarichi con la corrente, oppure puoi metterle con le, oppure puoi ricaricarla con le, con il caricabatterie della macchina, c'ha tutta, tutto il kit. L'ho comprato dai cinesi, la pila veramente buona, ti dura un mese la batteria, ti dura un mese carica. Adesso mi l'ho rimessa a caricare perché sono andato a vedere il baracchino che è al buio, l'ho illuminato e si è spenta la luce, era un anno circa che non la caricavo però. Eh già, solo che guarda, io adesso non mi ricordo se quelle di serie del Bafeng erano 1500 mAh o 1700, 2000, non lo ricordo, però quelle che io gli davo ricaricabili in questo guscio vuoto erano da 2500 mAh, quindi l'amperaggio era garantito lì. Il problema doveva essere da un'altra parte, proprio si spegneva, o si abbassava molto il display, o faceva come se avesse un rientro brutto. Ho detto, va, allora non serve a niente questo guscio vuoto, serve, vabbè, a ricevere come ricevitore andava bene, però trasmettere non c'era modo. Io non ho molta affidabilità con le batterie ricaricabili, Marco, dico la verità, perché una volta le ho prese quelle dal 2005, ci ho speso una barca di soldi per il portatile, e durava la barata a Santo Stefano, parlavi due secondi e poi ci sentivano basso e non uscivano più, erano scariche, cioè dovevo rimettere a ricaricare, ci duravano pochissimo, ricaricati ci duravano pochissimo, e non le vedo l'utilità di queste batterie, sono proprio, sono meglio le batterie normali, sinceramente. E alle volte sì. Guarda, a me per esempio l'Energizer ricaricabili, non chiedermi perché, mi si bruciavano facilmente, mi si bruciavano. Così, dopo poche ricariche, boh, interrotte, usavo il caricabatterie suo, no? Quello pagato col sangue, e si bruciavano, usavo gli altri caricabatterie che erano anche meno potenti, no? Più lenti in carica. Le mettevo negli utilizzatori e si bruciavano, duravano ben poco. Guarda, erano migliori se per quello le Uniros che vendeva Auchan, mi pare, o chi era. Poi sono passato alle troniche di Lidl, che sono praticamente senza infamia, senza lode, ma sono sempre andate bene, cioè a meno che non ci sia un elemento mezzo difettoso, no? Perché tu in un apparecchietto ne metti 4, 5, dipende che apparecchietto è, no? E danno tutti gli amper che serve, le ricariche le fai tante, ma tante prima di buttarle. Solamente ti devi accorgere se c'è un elemento debole, che magari è uscito male di fabbrica e non tiene la carica, quello sì. Ma quello anche con quelle costose. Però le Energizer mi ricordo che non valevano assolutamente i soldi. Ho capito, bisogna beccare magari quelle di marca buona, anche le signore prendevo la GBC, non è che le prendevo da USP, le prendevo la GBC e pagavo anche 30-32 euro di batterie, ma stiamo scherzando, no? Non le ho più preso, l'ho fatta andare con l'alimentatore e poi basta. Una volta avevo provato quelle Sanio gialle, mi pare fossero marcate Sanio, sempre con la punta, no, non a saldare, avevano la punta alla capocchietta, no? Buone anche quelle. Poi ne avevo provato una marca che aveva una cosa bianco, aspetta cos'era, ma vabbè non me lo ricordo. Invece ho sentito parlare di queste Eneloop e anche di altre marche che non ho mai provato. Sarà che le Sony, non le avevo provate le Sony? No, ricaricabili no. Ci sono anche ricaricabili. Vabbè. Però tanto lasciano sempre il tempo che trovano queste batterie ricaricabili, non valgono nulla, Marco. Io tutte le che ci ho provato durano da Natale a Santo Stefano, nemmeno pure, perché Natale a Santo Stefano è una giornata, ma cazzo, quelle manco un giorno durano, cioè ci scendevo col cane, ti ricordi quando parlavo con il cane che c'ho quel portatile che poi l'ho regalato? scendevo col cane e quando non volevo volare il questo che magari mi piaceva, mi portavo giù l'apparato e mi mettevo a passeggiare col cane con la radio accesa, mi prendevo per matto magari, ma comunque non me ne frega nulla. E parlavo addirittura da quella strada che porta al monte, avevo parlato con Sandro di Porto Torres, con portatile. Lì c'è zona buona, sì, quel punto era particolarmente buono. Sì, allora, nei portatili, nei baracchini sono... durano veramente poco, io mi ricordo proprio batterie valide prestate da me, quindi senza elementi così, cariche, provate nel Maxcom, sì il Maxcom mi pare che poi l'unico portatile rimasto, se le mangiava, tu basta che facessi un quarto d'ora seppure di botta risposta o scariche, perché in inutile in trasmissione i baracchini, poi quelli vecchio stampo, assorbono una marea di ampere e se le ciuccia, capito? Non è come metterle in un PMR da mezzo watt, capito? O in un ricevitore. I baracchini portati gli ciucciano batterie che non viene bene a dirlo. Beh, ma infatti non ne ho più usato portatili, a me portatili so quello che mi piaceva, quello che c'avevo 80 canali, ce lo ricordi che tu mi hai detto che ce l'avevano rotto, che le prestate ce l'avevano tornato smasciato. Quello lì era bello, quello sì che era un apparecchio, quello lì pompava forte. Ah, quello col telaio in alluminio, il Dynacom 80, no, quello non era stato prestato, quello era stato portato presso un laboratorio per una modifica, banale, una modifica al circuito di ricarica, e di fronte a me sono stati invertiti i poli e ho visto uscire il fumo, e ho detto attenzione il fumo, vai subito a staccare, ma il danno era già fatto, ad apparato acceso, cazzo, come cazzo si fa a lavorare apparato acceso, a fare modifiche, saldature, vabbè, e l'ho imparato a mie spese, ma quello l'ho pianto, quello è l'unico, porta tutto bene in alluminio, col display dei canali a LED, l'attacco micro a quattro poli, l'uscita antenna, l'uscita cuffie, lo smitterino, ti ricordi piccoletto, tipo Tokai, cos'altro aveva? Boh, la cinghia, vabbè la cinghia, ma non darlo per scontato, certi non te ne davano il cinghia. Cos'altro aveva? Non mi ricordo. Il mio si chiamava Major e c'aveva tutto, sì è vero, c'aveva, era uguale sicuramente, ma la nome era diverso, il mio si chiamava Major. Sì, confermo, c'era marcato Major, marcato Dynacom, marcato Intec e poi chissà quante altre marche che noi non conosciamo. C'erano anche vari modelli di quello, c'era il 40 canali, l'80 canali oppure un altro modello che era AM ed FM, presumo solo 40 canali. Quello lo voleva Paoletto e mi ha detto che mi dava un apparato con le bande laterali eccetera eccetera. Sono andato a casa sua e il padre era a letto, poveraccio, era già malato. Mi ha chiamato e ha detto venga, gli devo parlare. E l'ho detto mica, se lei dice di dare quell'apparato, allora Paoletto non ha bisogno di nulla perché i soldi per comprarli lo ce l'ho, ma non gliene compro di portatile, perché se lui va nella strada si mette a parlare con Baracchino, passa la macchina e lo mette sotto, ecco perché non l'ho mai comprato. E lui lo desidera perché vuole andare in giro con l'apparecchio, capito? Dice mi scusi però che l'ha fatto venire, però non fa, Paoletto dice non fa perché poi va nella strada, si distrae e le macchine lo mettono sotto, grazie lo stesso, è ben gentile il padre. Sì, hanno detto che il padre era molto una persona squisita. Questo fatto me l'avevi raccontato, sì, che Paoletto si sarebbe distratto troppo con questo baracchino e come il cellulare oggi, avrebbe attraversato la strada senza guardare e l'avrebbero stirato. Ecco la ragazza scendendo dal pullman, a ottava, non aveva fatto così, c'aveva il cellulare in mano, era col cellulare e la ragazza in gatto una mazza. Sì, ma lì allora è una cosa che ti ipnotizza, cioè come fai a scendere alla cieca da un pullman o attraversare un qualcosa? alla cieca per stare incollato a questo cazzo. Sono tutti incollati a questo smartphone, ragazzi. Io certe volte, io non lo tengo sempre in mano, certe volte lo mollo in qualche stanza, certe volte me lo dimentico in macchina, tant'è che poi devo andare a riprendermelo. Sarà una malattia veramente, una malattia. Io sono lo stesso, solo quando esco fuori ve lo porto appresso, se no se vado col cane giù, lo metto in carica, così quando lo trovo già carico a casa, capito? No, non me ne porto, a me mi rompo le scarpe. Ma vero, l'altro giorno per dire stavo attraversando nei passaggi pedonali vicino a casa, ero col cane, questa tipa col telefonino in mano, distratta, proprio come si gasigheggia, se non tiro il cane di colpo, poi mi ha fatto scusa con la mano, però intanto ci ha sfiorato. E alla guida, mamma mia, bisogna stare attenti. Io non ne tocco mai, cerco di non distrarmi, anche parlare, lo sai, col passeggero o passeggera mi distrae un po', cioè non c'ho comunque quel coso di attenzione che ho quando sono zitto, bello, magari con musica, però con gli occhi piantati in strada, perché poi ne escono di tutti i colori, da dietro le macchine, da dietro i tram che sono fermi, da dietro il camion, vedi gente che... Molti non guardano, selezione naturale già. Lo so. No, io la verità ce l'avevo a voce in macchina, quindi quei problemi non ce li ho. Premo un tasto e poi continuo a parlare, no? Non ho problemi, però questa ragazza addirittura c'aveva il telefono, stava parlando e aveva la testa abbassata, quasi abbassata sul volante. Quindi come cacchio faceva a vedere davanti? Spiegami. Infatti quando li beccano sono dolori, aspetta che abbassa lui il ricevettore, si sente? No, che cosa ha messo? No, quel ponte che manda sempre il nome, la locazione presumo anche, col morse, no? Ho abbassato il volume. E beh, adesso non si sente più niente di niente però, fa Napoli. Peccato, guarda, da quando io ho dovuto smontare tutto, non ho più antenna UHF esterna, una bibandina, io c'avevo una bibandina cinese, lunga 30 cm, bianca, con tre radialetti alla base, andava così bene, stazionarie, vabbè, a parte le stazionarie ottime per il PMR, però riceveva tutto, bastava mettere quella su un palettino sottile sottile qui all'angolo del terrazzino e già riceverei molto molto di più. Adesso vediamo, forse che la ripristini in futuro, però sempre ci sono qualcosa da terminare, che non si termineranno mai, per carità, guarda. Giulia, per carità, lo so, è così, e lì ci sono andate non so quante ditte, hanno mollato, poi ripreso, poi adesso hanno mollato di nuovo, così. E vabbè, qua avevano finito per il 110, però sì, tre ditte in tutto, una era di mezzi di gente losca, poi si sono derubati a vicenda i soci, non so, uno si è portato via altri soldi del capitale, a quanto hanno detto, sto riferendo dell'impresa, si è intestato il capitale scomparso assieme a buona parte di roba del cantiere loro, però non il cantiere qua, capito? La seconda impresa ti manda due persone a lavorare, cioè venivano in due, in tre e non finivano più. Poi una terza, lo stesso che erano due messi in croce, ma che cavolo di imprese sono? Purtroppo, sai cos'è già? La Vitruvius. Noi volevamo gente a livello di Vitruvius, che ti mandano squadre intere che però anche loro, pur di fare molti palazzi, stavano, venivano un giorno, poi per tre giorni non li vedevi perché si facevano tutte le altre palazzine del 110, capito? Però almeno ci avevano anche tutto, erano più ordinati per tutto, c'avevano addirittura i caschetti, le cinghie di imbragatura, tutto regolare, non come questi cazzo presi da là. Sono in bassa manovalanza, mine. Dai, venduri. Eia. Va bene. Comunque, almeno quello, almeno hanno finito. Poi, chi è rimasto più contento, chi meno. Vabbè, quello è. Pazienza. Dove eravamo rimasti? Parlando parlando di radio di? Posso finire anch'io, ne abbiamo detto tante di cose. E comunque quello del 110% a Bruno Lagallo gli avevano fatto lo stesso 110%, ma gli hanno fatto squadroni, addirittura dice che in un giorno gli hanno cambiato tutte le finestre. Sì, così si fa. Che poi lì ci sono anche aziende subappaltanti, subappaltate, non mi ricordo. Cioè non è che facevano tutti i muratori, certe cose le potevano fare loro, certe cose ci voleva altre imprese che si occupavano solo della parte elettrica, delle pompe di calore, cioè il muratore faceva il muratore, l'installatore faceva l'installatore, come è giusto che sia. E se no sono tu factotum, vuol dire che sono improvvisati. Ma queste erano squadre che venivano dal continente, non erano di qua, capito? I primi che mandavano erano di quelli continentali. Insomma, gli appalti di gente, quelli di Milano, di Napoli, eccetera, li mandavano qua, facciamo il lavoro in faccia se le ripartiva. Eia, un attimino, ecco qua, regoliamo, è fatto. E insomma, va bene, piuttosto Carlo, non hai saputo più niente di Carlo, sta lavorando forte, forse per la stagione estiva ha lavorato forte, perciò non sta più entrando. No, non ho saputo più niente, Marco. Ma neanche al di fuori del baracchino vi sentite, no? No, no. E comunque, vabbè, per forza, gli aeroporti lavorano forte, chissà, c'è molta gente passata per l'aeroporto, così come i porti, in estate, un bel avvoluto di gente. Ah sì, comunque prima stavamo parlando di antennini da mettere fuori per ricevere un po' meglio, non dico perché risulterebbe sempre un primo piano poi, però meglio che avere un antennino dentro, telescopico, già è. Ma questa antenna cinese, allora, mi si sono rotti i radiali, uno, due, che mi si è spezzata proprio nella filettatura, nella... E vabbè che costa talmente poco che faccio prima a ricomprarla. E il kit radiale è separato, ti danno due kit radiali, uno per la VHF se vuoi accordare meglio in VHF, oppure anche l'altro kit se vuoi accordare meglio in UHF, ti danno due kit radiali a un prezzo irrisorio poi, e quella era la consideravo valida. E ho capito, sì, vabbè. Ma li hai ordinati o ce li hai? No, l'avevo avuta, mi si era rotta, mi si era, forse l'avevo calpestata non volendo, mettendola dentro, eccetera, mettendomi fretta a quel cazzo di muratori, e purtroppo l'avevo schiacciata, si era rotto il radiale, la base proprio nella filettatura. Infatti dovrei vedere se riesco a fare un'incisione e svitare ciò che rimane del radiale, non nella filettatura. Nel caso ordino solo i radiali ed è già pronta all'uso. Kappa. Poi di antenne dietro la porta c'ho, ogni tanto ne spunta uno, c'ho sempre quella Sirio J440, comunque la J-Pol 440, che però va bene solo per ascoltare in UHF, ma in V perde tantissimo, quella J-Pol lo sai che è stretta, si deve lavorare solo nella sua banda. Ci avevo quella mai usata, come si chiama? Uffa, di quella marca buona, come si chiama? Dai, la marca di antenne VU nota, non Comet, l'altra, Diamond BC202. Solo UHF, sembra praticamente un X30, una cosa, però è tutta metallo, ma non vetroresina, tutta metallo. E mi pare sia in due sezioni ed è fatta apposta per essere tarata in UHF, però senza tararla c'avevo già 1 e 2 in 446. Però anche quella, vedi, sì, va bene per eccellente per ascoltare la UHF, però in V, se è monobanda, sempre una perdita sarà, ma quindi. E poi lunga, quella è 1,30 m mi pare, non è roba che posso mettere sul terrazzino. Sul terrazzino potrei mettere questa micro bibanda che avevo, quella rotta nei radiali, oppure quella J-Pol, che però è monobanda, insomma già trovo poi la, insomma trovo antenne su antenne, avevo la cosa degli anni 90 addirittura, quella fatta a Corona, la Discone, della, non mi ricordo la marca, se era Lemmo o cos'era, anni 40, capito? Anni 40, anni 90, proprio l'avevo presa all'epoca e ce l'ho tuttora. Caspita, che bene che ci sente questa radio, come mi ascolti, Marco? Più bassino, un po' più acuto forse come tonalità, che cos'è? Questa è il Royce col microfono, quello famoso che avevi dato. Ecco, aspetta, avevo il volume basso io già, come sempre, ecco, prova un po'. Ho detto, questo è il microfono a static, col Royce. Ecco perché era un po' più acuta, sì, però benino, adesso ho alzato un po' il volume, io lo tengo sempre basso qua perché qua rimbomba in ascolto e ci andrà bene, già. E se no posso alzarlo il volume, guarda, così va meglio. Sì, sì, magari meglio, ma va già benissimo, per questo locale di lusso. Capito già, la Discone dagli anni 90 ce l'ho ancora. Discone quella semplice, no, che faceva tipo dai 60 ai 900 megahertz. Roba così che non uso più, però è tutta funzionante, l'ho tenuta smontata. Insomma, c'è un bel po' di antenne messe da parte qua. Messe da parte, per usi futuri sempre, dico io, e poi questi usi futuri non vengono mai. Ce l'ho anche io, una Turbo 2001 nuova, mai usata. L'altra l'ho venduta, quella con la magnetica, l'ho venduta uno di Alghero. Questa qua che è nuova, che non l'ho mai usata, non l'ha mai invitata nessuno. Ah, se trovo qualcuno me la vendo, perché ce l'ho sopra il mobile, lì, buttata, senza... Nuova, ancora col filo legato, mai aperta, mai attaccato PL, nulla. Proprio come la vendo, è lì ma a caso del nylon, perché gliel'avevo buttato via, perché avevo intenzione di metterla, poi ho opzionato per quell'altra antenna che tu sai... non ne ho più messo, dai. Sai quale piace molto a me di Discone? La Sirio 1300, o come si chiama, 130, una cosa del genere, perché anche hai radiali verso il basso, poi quelli orizzontali, e poi c'è questo stilo lungo circa un metro e fa 25.003, quella mi piace da morire, tutte ne sai io inox, a parte vabbè il cuore e il corpo in ottone, solo che non ha più senso avere la Discone già, perché una volta ascoltavi DCB, ti ascoltavi, che ne so, la zona di 40 MHz, la zona di 70 MHz, che ne so, magari sui 46-49 sentivi i telefoni, quelli cordless analogici, casalinghi, poi cosa ne so, vabbè, i radiamatori, insomma tutta la UHF, poi cos'altro c'era, i 900, i cellulari, quando erano in chiaro anche quella era utile per lì, adesso che non c'è più niente di in chiaro, a cosa serve? A niente, in chiaro ci sono i radiamatori, punto, quindi basta una Comet, una Diamond X30, punto. Non è che servono molto più le Discone. Larga banda per ascoltare largamente cosa? Largamente nulla. Ma infatti adesso non si sente più nulla. Prima c'erano diverse cose che ci piaceva ascoltare, adesso tutto criptato, capisci? Non si può sentire più nulla, Marco. Sì, quella lì era un'antenna, mi sa che era solo per l'ascolto, però non era per parlare. Era una multibanda per fare ascolto e basta. Però aveva, erano anche indicati sul foglio dei punti di risonanza, cioè in VHF lo potevi usare, VHF radiomatoriale, VHF radiomatoriale, c'aveva delle zone ridondanti, si può dire, no? Cioè cicliche che riuscivi ad accordare, con stazionarie che loro dicevano fossero accettabili, non so quanto accettabili, però noi, io la Discone l'ho usata per usare un apparecchio PRC quelli militari con la cornetta, PRC sui 50 MHz, una cosa del genere. L'ho usato, le stazionarie non le ho neanche controllate perché non avevo un rosmetro adatto a quelle frequenze, però non abbiamo bruciato niente, quindi vuol dire che bene o male funzionava. E dove l'hai buscato questo apparecchio militare? Aspetta, sai quei cataloghi, cos'era? ESCO oppure... Esiste tuttora, ESCO o Radio Rivista, vende tutti questi cassoni, mi pare che fossero all'epoca i PRC10, PRC10, modulavano in FM, mi pare 38,55, 38,59 MHz. Non ho capito, tu già hai spazzato tutte le frequenze. Ma giusto per prova, tipo si sente, sì, bello, bello. Però le stazionarie, vedi, io non avevo un rosmetro, qui all'epoca, anche se c'era, sarebbe stato costosissimo. Costoso, dai, diciamo, non era per me, dai. Usavi la cornettina, sì, c'aveva il PTT, premevi e parlavi, funzionava. Pensa che era addirittura ancora a valvole. Parzialmente a transistor, ma c'erano quelle valvoline Raytheon, che c'era il simbolo della radioattività sulla bustina, diceva che conteneva un gas radioattivo, sicuramente radon. E di morire la radioattività in casa, oh, per carità. C'è la lirica della radioattività. vabbè Marco, dai. Sai che ti lascio, che devo scendere giù col cane, dai, mi dispiace, però devo scendere, questo mi sta rompendo, siamo a bocciare una mimmura, va. No, ci mancherebbe già la chiacchierata ce l'abbiamo fatta. Allora, queste valvoline erano piccole, sembravano come delle supposte, però erano valvole, no, ma tranquillo, quelle erano, sicuramente erano radiazioni alfa, quindi non fanno niente, neanche a contatto con la pelle. Certo, se lo respiravi poteva essere un po' seccante, infatti devi stare attento a non romperle e a non respirarci sopra, ecco, tutto lì. Va bene, ciao Gianni, grazie della chiacchierata, ci sentiamo quando capita. Ciao Marco, dai, mi ha fatto piacere, ci sentiamo, ciao, buona serata.